Ada Gobetti. Nella Resistenza la donna fu presente ovunque, sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso della prigione come nella piazza o nell'intimità della casa. Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui ella non partecipasse, come una spola in continuo movimento. Costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile, il tessuto sotterraneo della guerra partigiana. E benvenute alla puntata di oggi di C'è trippa per gatte e più storia, la nostra storia per di femministe lesbiche, compagne, amiche, amanti, amazzoni e guerriere. Oggi ovviamente la trasmissione è dedicata alle donne nella resistenza. Voglio farvi ascoltare alcune voci, sia voci di donne partigiane che hanno fatto la resistenza al nazifascismo e che poi hanno continuato a dedicare la loro vita alla lotta, al racconto, alla resistenza quotidiana, e poi ascolteremo anche voci di compagne, compagne del martedì autogestito da femministe lesbiche che sono ancora ai microfoni con noi o che da qualche tempo ci hanno lasciato ma che continuiamo a salutare con affetto. E sì, faccio dire a loro, quel loro che poi siamo sempre noi, faccio dire attraverso la voce di partigiane e compagne, vorrei oggi raccontare o dare degli spunti, dei ricordi della resistenza e del ruolo delle donne nella resistenza. C'è sempre bisogno di parlarne, continuare a parlarne, Perché le donne nella resistenza, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista delle compagne del Martedì autogestito da femministe e lesbiche, le donne nella resistenza hanno avuto un ruolo centrale, come spina dorsale, delle lotte, come collegamento, come rifornimento, sia di armi che anche di cibo e di tutti i beni necessari ai partigiani in montagna. Sono state animatrici della stampa clandestina, hanno scritto i comunicati, i volantini, li hanno stampati, diffusi, hanno fatto lavoro di propaganda, continuando a cercare altre donne disponibili a entrare all'interno della Resistenza, hanno fatto chilometri e chilometri e chilometri ancora in bicicletta attraverso l'Italia per portare messaggi, per portare armi. Hanno imbracciato il fucile e sono andate nella macchia, in montagna, nei boschi, insieme a compagni maschi e hanno dovuto lottare anche contro di loro per riuscire a ricavare un loro spazio, un loro ruolo come combattenti attive. Hanno fatto gli assalti ai forni, come sappiamo bene a Roma, hanno sfidato il coprifuoco nazista per sottrarre il pane ai nazifascisti. Hanno fatto un sacco di cose. Crediamo che sia continui a essere fondamentale parlarne, a raccontarlo e quindi un po' di spunti in questa trasmissione di oggi. Dall'intervento di Francesca Koch leggiamo qualche spunto che può aiutarci poi a interpretare meglio le voci di queste donne che testimoniano la loro attività all'interno della Resistenza. E ovviamente la partecipazione delle donne alla lotta armata è una partecipazione in prima persona, è una scelta che cambia la condizione personale e biografica di queste donne, è una scelta che ha un esito e ha anche un valore politico. Questo perché appunto uno degli stereotipi che gravano sulla lettura della resistenza e della presenza femminile nelle lotte di liberazione in quegli anni è proprio questo che ne fa una presenza in qualche modo marginale, secondaria. Questo è un vizio che poi diciamo si è esplicitato nel primissimo dopoguerra, in cui le donne sono state forzatamente ricondotte ai ruoli tradizionali e appunto nei primissimi mesi dopo la liberazione la condizione femminile viene ricondotta in termini di naturalità, in termini di presenza familiare, da cui derivano questi vizi di fondo dell'interpretazione dell'attività delle donne durante la resistenza. Invece è importante sottolineare che la scelta delle donne di armarsi rompe proprio lo stereotipo che vedeva la lotta armata una caratteristica solo maschile, e le donne si trovano in quegli anni a tu per tu con la violenza, sia nel senso della violenza da loro subita nelle varie forme dello sfollamento, dei bombardamenti, i campi di sterminio, le torture, le uccisioni, eccetera, ma anche nella violenza che loro scelgono di agire. Quindi sono dei comportamenti che rompono fortemente alcune aspettative, alcuni ruoli di genere e che sono anche, poi come testimoniano le stesse partigiane, insiti anche nella mentalità degli uomini partigiani. Quindi le donne avevano veramente in quel periodo dei fronti aperti a tantissimi livelli, sia col nemico tedesco, fascista, ma anche all'interno proprio tra i compagni di lotta, insomma. E quindi la resistenza civile si intende come una pratica di lotta di singoli o di gruppi, non fatta per forza con mezzi armati, ma attraverso sicuramente il coraggio morale, l'inventiva, la duttilità, questa per le donne in particolare, la capacità di manipolare i rapporti insieme rafforzati e mediati dalla carica simbolica connessa appunto alla figura femminile. Questa categoria restituisce politicità a quello che appunto fecero le donne partigiane. Ascoltiamo il primo audio di Giovanna Marturano, una partigiana nata a Roma nel 1912, comunista e dirigente del movimento femminile dell'ANPI, medaglia di bronzo al valor militare. Allora, abbiamo dovuto combattere non solo contro gli uomini o le donne, contro gli uomini antidemocratici, ma anche con i nostri compagni di lotta, gli stessi compagni con i quali avevamo lavorato, avevamo lottato durante la resistenza, ce li siamo trovati contro, perché anche loro si arroccavano in certe posizioni. Troppi secoli ci si è data un'impronta al ruolo che doveva avere la donna, un ruolo di inferiorità. Per secoli la donna è stata posta in una condizione di inferiorità, per cui noi donne della resistenza, subito dopo la resistenza, abbiamo dovuto lottare anche con questo nostro senso di inferiorità, molto grande. Però non abbiamo risolto le cose, siamo ancora molto indietro, alcune cose le abbiamo conquistate e ce le hanno tolte. Alcune cose sono solo sulla carta e alcune cose sono andate avanti un pochetto, però maschilismo c'è ancora, parità femminile non esiste. Perché ho scelto di fare la partigiana? Era una conseguenza logica della lotta antifascista. Perché tutti noi abbiamo scelto di fare la lotta antifascista? Perché abbiamo visto il nascere e svilupparsi del partito fascista, della politica fascista. Una politica contro la libertà, contro la democrazia, contro la giustizia, contro la pace. E in maniera particolare noi donne volevamo che fossero risolti alcuni problemi molto importanti. Volevamo avere gli stessi diritti degli uomini e qualche diritto in più. Da piccoli noi abbiamo visto, appunto, come ho detto, la politica fascista inizialmente, poi andare avanti sempre peggio. L'abbiamo visti di persona. Eravamo presenti quando facevano certe azioni, le sentivamo, tutte le violenze sentivamo raccontare, eccetera, e alcune le subivamo. Questa è stata la scelta di cosa. In più, per questa scelta di lotta antifascista e di lotta antipartigiana, ci ha aiutato l'educazione di mia madre, che era una persona profondamente democratica, nonostante che fosse nata nell'82 praticamente, lei aveva un'apertura molto grande sulla situazione e sul tipo di vita, lottava contro tutte le restrizioni, perlomeno molte restrizioni che c'erano a quell'epoca. Io ai giovani dico, noi a quell'epoca difficile abbiamo deciso di fare battaglia, di fare una lotta. E lo stesso consiglio diamo ai giovani: voi dovete lottare con questo fascismo, sia pure in forme diverse, che sta rinascendo. Alcune cose che noi abbiamo conquistato con tanta fatica, soprattutto noi donne, perché era molto più difficile per noi conquistare le cose. Intanto avevamo più problemi, perché ci trovavamo in una situazione molto peggiore degli uomini. In più avevamo tanti problemi irrisolti, per cui alcuni li abbiamo portati avanti e sembrava che ci fosse una soluzione. Questa soluzione molte volte ci è stata svuotata, addirittura annullata. Però alcune cose, anche molto importanti, noi le abbiamo conquistate. E l'importanza di queste conquiste non si può vedere, è difficile apprezzarle in pieno, se non conosciamo la situazione da cui siamo partiti per conquistare certe cose. Ci sono alcune conquiste ovvie che adesso la gente non pensa che ci sia stato bisogno di lottare, ma che ce l'avevamo. No, non ce l'avevamo. La salta ai forni non l'abbiamo inventato noi, non l'abbiamo organizzato noi. È stata una cosa popolare. Un giorno le donne hanno trovato il fornaio chiuso. Il pane era già poco, no? Non c'è pane, oggi non c'è proprio pane, come facciamo?

Questa è una particolare versione di Bella Ciao dei 21 Love Hotel. Fa parte della colonna sonora del documentario Bandite di Alessia Proietti, che è un documentario uscito qualche anno fa, molto bello, in cui attraverso la voce di varie partigiane, che poi andremo ad ascoltare nella trasmissione di oggi, viene raccontata la storia della Resistenza, riraccontata con molte immagini di repertorio e molti ricordi delle compagne partigiane, ma non solo, anche di storiche che contribuiscono a mettere l'attenzione, a focalizzare l'apporto delle donne nella Resistenza, e anche mettendo a fuoco aspetti di cui non si è parlato mai moltissimo, come per esempio quanto lo stupro sia stato usato dai nazifascisti come arma di guerra contro le donne partigiane. L'audio che segue sono vari stralci tratti dal documentario Bandite di Alessia Proietti. Io mi chiamo Valchiria Terradura. Il mio nome è Maravasi Annita. Sono Mirella Loisio. Pagliera. Guazzalotto Silvana. Il mio nome di battaglia è Laila. In montagna Miria. Nome di battaglia Valchiria. Rossella. Nessuno pensava che le donne potessero essere un pericolo, perché non erano considerate dei combattenti. A nessuno veniva in mente che una donna potesse fare parte della Resistenza. E quindi potevano girare liberamente, gli uomini no. Poteva capitare che tu magari andavi in valle con della roba, qualche volta anche con delle armi, era difficile che fermassero una ragazza. Essendo donne e non essendo legate militarmente, non avendo obblighi militari, no, essendo considerate degli esseri inferiori, eravamo meno perseguitate, meno controllate, potevamo passare senza pericolo di essere prese. Le donne invece cosa dovevano fare? Dovevano femminilizzarsi a oltranza. Uscivano di casa ben vestite con le calze e cercavano di non romperle le calze, perché dovevano apparire delle ragazze così che andavano girando, non certo delle staffette che portavano ordigni. Il bottone del resistino mentre sei lì che parli con un fascista, ed era d'estate perché eravamo quasi in agosto e senti la rivoltella che ti va giù. Quella volta lì c'eravamo in due ragazze e avevamo sei rivoltelle. Era una vita frenetica. Battuto con le armi in pugno sempre, e naturalmente i primi tempi con una gran paura, quando mettevo la pallottola in canna sia nella pistola o mettevo innestavo le caricature nel mitra, c'era un po' di timore. Chiunque veniva preso con un'arma veniva fucilato sul posto, clandestinamente, con molta fatica, e è toccato molte volte anche a me recuperarle e portarle in montagna. Mi hanno subito riconosciuto il titolo di ispettore organizzativo, perché ero quella che portava più armi, ho portato più armi di tutti. Quando chiedevano volontari per andare in un'azione, quando una o due donne si offrivano volontari, ci guardavano molto sospetto. Ma sai, voi force non siete all'altezza della situazione, beh, provate, dicevamo noi altri. E poi dopo alla fine erano loro stessi, ma all'inizio era logico che, siccome erano vissuti sempre con l'idea che la donna stesse a casa a fare il ricamo col cazzetto e a fare il brodo, era logico che ci avessero qualche diffidenza, no? Quando vedevamo, pensavamo di sparare contro gente anche giovane, magari dell'anno che vedevamo sui camion della nostra stessa età, beh, c'era un certo apatema, perché uccidere un essere umano ormai non era nelle nostre corde, mentre quando le loro ci prendevano, magari ci torturavano, ci facevano una fetta, invece noi no, noi avevamo un altro sentimento nei loro riguardi. Cioè, abbiamo combattuto, specie noi, con cuore di donna. Le donne partigiane sanno che possono essere violentate. Possono essere violentate in vari casi, però fondamentalmente possono essere violentate come tortura. Le donne partigiane, se prese e catturate dai fascisti e dai nazisti, sanno che fra le torture che normalmente mettevano in pratica per costringere le persone a confessare, loro potevano subire la violenza sessuale. Lo sanno e ne sono consapevoli. Moltissimi sono i casi che sono stati registrati. Storia, credo, di nessun popolo è mai avvenuto che un esercito regolare si arrende a un esercito irregolare, quale era quello dei partigiani. Cioè, le truppe del generale Maynol furono costrette, attraverso la presa di posizione decisa del Comitato di Liberazione e del Comando Militare Regionale, ad arrendersi. L'emozione più forte, quella ho inteso che non potevo fare altro che ridere e piangere. Ascoltiamo ora la testimonianza di Elsa Oliva, ce la legge una voce di una compagna che è stata per tanti anni al Martedì e che salutiamo con affetto. Ci sembra in qualche modo un po' paradossale dover continuare comunque a dire e ribadire che le donne hanno fatto, anche le donne, anche le donne hanno fatto la resistenza nel nostro paese tanto quanto gli uomini, e che questa cosa molto spesso invece non viene mai fuori, e soprattutto che l'hanno fatta appunto non soltanto come staffette, come sarebbe un po' quasi comodo raccontare, ma hanno, quando è stato e quando hanno voluto e potuto, hanno imbracciato le armi, sono andate su in montagna, sono morte combattendo, e non solo questo, sono rimaste a valle a ciclostilare, a scrivere i volantini di informazione nonché di propaganda partigiana, li hanno distribuiti, hanno creato e tessuto i contatti e le relazioni e le reti per viaggiare attraverso il lungo e duraturo lavoro delle donne. È stato possibile per tanti luoghi sparsi anche nelle montagne rimanere in contatto e comunicare l'uno con l'altro, e quindi insomma, non credo, da una parte crediamo che non ci dovrebbe essere neanche bisogno di dirlo, dall'altra evidentemente poi per altri versi invece sembra che ci sia questo bisogno di dover raccontare il fatto che le donne hanno fatto la resistenza. E quindi qui vicino al 25 aprile di quest'anno ci piaceva raccontarvi la storia anche di Elsa Oliva dalle sue parole, comunque in un libro che racconta le 12 vite di partigiane piemontesi, che si chiama La resistenza taciuta, di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, che l'hanno insomma in qualche modo coordinato, e riunisce appunto testimonianze autobiografiche raccolte in interviste registrate di 12 donne partigiane piemontesi. Ci piace anche ricordarle Nelia Benissone, Lucia Canova, Albina Caviglione, Anna Cinnati, Teresa Cirio, Tersilla Fenoglio, Lidia Fontana, Rita Martini, Elsa Oliva, Rossana Rolando, Maria Rovano e Maria Rustichelli. E proprio Elsa Oliva, nata l'11 aprile del 1921 a Piedi Mulera, da una famiglia operaia e antifascista, frequenta la scuola fino alla quarta elementare. A 8 anni inizia a lavorare come domestica. Nel 1935 scappa di casa e va a vivere in Valsesia e successivamente in Val Gardena. Per il suo aperto antifascismo viene espulsa da Ortisei e assegnata a domicilio coatto a Bolzano. Dopo l'8 settembre del 1943 partecipa alla difesa della caserma di Bolzano contro i tedeschi e aiuta i militari italiani a mettersi in salvo. Con un gruppo di compagni organizza attacchi contro le forze di occupazione. Arrestata dai tedeschi alla fine del 1943 e deferita al tribunale di Innsbruck, riesce a fuggire durante la traduzione. Nel maggio del 1944 raggiunge le formazioni autonome dell'Ossola, entrando attivamente a far parte della seconda brigata della divisione Beltrami, poi della divisione Valtoce, nella quale combatte anche suo fratello Aldo. Diventa comandante di una volante partigiana, è arrestata dai fascisti nel dicembre del 44 e condotta a Baveno, è condannata a morte ma riesce a fuggire. Rientrata in formazione continua la lotta armata fino alla liberazione. Avrei potuto servire benissimo la resistenza come informatrice, come staffetta, restando all'anagrafe. Invece ho capito che io volevo combattere con le armi in mano. A Bolzano i nostri soldati, prigionieri, erano stati radunati come animali in un campo di concentramento sul greto del fiume Taverna, in attesa di essere caricati sulle tradotte e deportati in Germania. Con Giovanni, un compagno della Croce Rossa, sono riuscito a parlare con qualcuno di loro e a trovare il modo di farne scappare parecchi. Prima li nascondevamo da qualche parte, poi li portavamo in ospedale dove c'era un capitano medico antifascista che ha molto aiutato. Non volevo più andare in ufficio. Un mattino però viene la polizia tedesca in casa. A questo non avevo pensato. La lotta di liberazione è stata tutta un'inesperienza, tutta un inventare, un creare al momento quello che dovevi fare. C'era stato un bando che invitava tutti a riprendere i posti di lavoro, stabilendo pene per i trasgressori. Spiego ai tedeschi che non sono andata in ufficio perché ero spaventata dai bombardamenti. Mi consigliano di presentarmi con certificato medico. Per qualche giorno sono andata in ufficio, allo sportello numero 6, per dare documenti a quelli che scappavano e distribuire tessere annonarie e certificati di congedo illimitato. A volte li rilasciavo ai familiari perché i soldati avevano paura a presentarsi. Poi ho dato fuoco all'anagrafe perché non scoprissero la falsità di quei certificati. Nel tafferuglio dell'incendio sono scappata fuori anch'io e me ne sono andata, non mi hanno più ripresa. Vado anch'io in montagna, è il mio destino, lasciami fare. Questo è quello che Elsa Oliva ha detto a sua madre. Avevo poi il problema di farmi accettare come partigiana. Io volevo sparare, fare i combattimenti. Dopo un paio di giorni che ero in formazione, chiedo a Meloni di riunire gli uomini perché io avrei voluto dire una cosa. Avevo visto che c'era qualche giovane che mi usava dei riguardi diversi, mi porgeva qualcosa, mi preveniva in qualche compito. Ho detto a Meloni e agli altri, non sono venuta qui per cercare un innamorato, io sono qua per combattere e ci rimango solo se mi date un'arma e mi mettete nel quadro di quelli che devono fare la guardia e le azioni. In più farò l'infermiera, se siete d'accordo resto, se no me ne vado. Al primo combattimento ho dimostrato che sapevo combattere come loro e che l'arma non la tenevo solo per bellezza, ma per mirare e per colpire. Come combattente ero molto severa. Negli ultimi mesi è sorto il problema della mia presenza in formazione. La Valtroce era una formazione autonoma, di estrazione cattolica. Penso che la questione l'avesse sollevata l'alto clero, che non vedeva una donna armata con funzioni di comando proprio in una formazione loro. Mi hanno anche offerto un posto dirigente nell'organizzazione del CLN, pur di togliermi da lì. Io non ho accettato nel modo più assoluto. I comandanti hanno capito che di quel passo rischiavano di far sciogliere la formazione perché tutti i compagni erano con me e allora non hanno insistito. Il Dopo Liberazione è certamente stato molto diverso da come lo pensavo. Dopo la Liberazione, che è stato il fatto più grosso della nostra storia, perché compiuto da tutto il popolo antifascista e non da un'elite come Risorgimento, sono mancate le riforme che dovevano agevolare le grandi masse popolari. Le agevolazioni sono sempre state per i medesimi, per i ricchi, quelli che oggi portano la camicia beige o azzurra, ma che è sempre la camicia nera di ieri. Anche il discorso sull'emancipazione femminile in questi 30 anni non è molto andato avanti, nonostante tutto, perché l'uomo non l'accetta. Le donne queste cose le sentono, ma poi troviamo l'ostacolo maggiore nell'uomo, che non è preparato, nell'uomo politicizzato e non politicizzato, di sinistra e non di sinistra, e io lo vedo anche nella vita politica. Faccio un esempio buttato là. Nella mia attività politica, per risolvere un problema, mi viene un'idea e la esprimo. Non è raccolta. Dopo 15 giorni salta fuori un uomo del mio stesso gruppo che mi espone la mia stessa idea. Mi è capitato più di una volta. E non voler accettare un rapporto paritario. L'uomo fa fatica a abbandonare, a scaricare la posizione di privilegio che ha. Il periodo della lotta di liberazione è il momento più forte e più bello della mia vita. L'ho vissuto con gli uomini, facendo quello che facevano loro in un rapporto paritario assoluto. Ma non sempre la donna era accettata come lo ero io. Anche nelle formazioni di Garibaldini la donna serviva per lavare, rammendare, al massimo fare la staffetta, e rischiava più dell'uomo, perché le staffette rischiavano moltissimo. Io avevo un fucile per difendermi, ma la staffetta doveva passare tutte le file, andare in mezzo al nemico, disarmata, e fare quello che faceva. E se era presa? Se mi avessero chiesto, come a tante donne staffette, di portare munizioni e espormi continuamente al pericolo, avrei risposto, vacci tu, che io rimango in postazione. Sono tantissime le donne che hanno partecipato alla resistenza e non hanno avuto il riconoscimento. Perché tu non hai avuto il riconoscimento? Perché quella è la colpa sua. Anche a me non hanno riconosciuto il periodo di partigianato a Bolzano. È che in quel momento non trovavo testimoni. Se solo mi avessero dato un po' di tempo di più... Ma appena posso presento ancora ricorso. Ricordo che negli anni gli interrogatori che ho subito a Bolzano da parte dei nazisti mi hanno chiamata per la prima volta ribelle. Ebbene, io mi sono detta, io sarò sempre ribelle. È una parola che mi piace, lo sarò sempre. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, with my friends now, up to the city. We're gonna shake the gates of hell. E questo era un pezzo della storia di Elsa Oliva raccontata da lei stessa, una partigiana nata nel 1921 a Piedimulera. La storia l'abbiamo letta da questo libro che si chiama appunto La Resistenza Taciuta, 12 vite di partigiane piemontesi. Mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina appena alzata, i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. La la la la la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ed ogni ora amo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante Questa invece era la Bella Ciao cantata nella sua versione originale, ovvero come canto di lotta delle mondine. Le donne su tutti i fronti della resistenza. Ci andava di fare questa trasmissione questa settimana, dove come sempre si parla tanto, ma mai abbastanza, di resistenza, di partigiani. È un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra memoria, anche un pezzo delle nostre radici. E poi lo sappiamo che noi resistiamo tutti i giorni su vari fronti, soprattutto le donne, nei territori, con le lotte, e che la lotta, la resistenza ai fascismi, alle ideologie accomuna i compagni e le compagne in tutte le parti del mondo. E l'idea della nostra trasmissione in realtà è di dare voce alle partigiane che hanno fatto appunto questo pezzo della storia, della lotta del nostro paese, che molto spesso nella storiografia ufficiale sono sempre state o marginalizzate o addirittura comunque anche lì sempre relegate in un solo ruolo. Si parla sempre, quando si parla di donne e di resistenza, la prima cosa che viene in mente sono le staffette, o comunque appunto le donne che hanno fatto, sembra che abbiano fatto solo quello durante la resistenza. E invece, un po' come le parole in apertura che leggevamo, le donne hanno fatto la resistenza tanto quanto, se non addirittura in qualche modo con loro, cercare con loro mettere in pratica una rete capillare di movimento, di contatti, di aiuto, di connessioni. Sono state sicuramente anche la spina dorsale proprio della resistenza, almeno questo è il nostro, è uno dei nostri punti di vista. Sì, anche perché da un certo momento in poi, diciamo che la maggior parte degli uomini erano tutti in montagna, insieme anche a tantissime partigiane, ma tutte le donne rimaste in città svolgevano un lavoro enorme, sia di stampa clandestina, sia di portare messaggi, portare cibo, portare armi, insomma, e svolgere anche un lavoro di discussione, di formare anche delle altre partigiane all'interno dei quartieri, gli assalti ai forni, insomma erano molto più visibili a un certo punto della storia, e quindi rischiavano anche tanto tanto di più. Potremmo dare qualche cifra. Secondo le cifre dell'AMPI sono state censite 35.000 combattenti, 20.000 donne con funzione di supporto, 70.000 tutte le donne organizzate nei gruppi di difesa della donna, 512 le commissarie di guerra, 5.000 le donne arrestate, torturate, condannate dai tribunali fascisti, 2.756 le donne deportate nei lager tedeschi, 2.900 le donne giustiziate in combattimento, ma ricordiamo che questo totale è gravemente in difetto. E concludiamo la trasmissione di oggi dando ancora voce a Giovanna Martorano, partigiana romana. Non c'è altra via che combattere, cioè questo è il fatto. E però non combattere il giorno stabilito dove c'è un anniversario, eccetera, ma combattere tutti i giorni, in tutti gli episodi della vita. Dal lavoro si può andare in pensione, ma dalla lotta no. La lotta non si può mollare, si deve fare ogni giorno, anche quando sembra che non c'è nessun risultato possibile. Serve sempre, non è vero che non serve. The animals, the animals.